Natalino, ci sei? Natalino, ci sei l'ascolto? Attento Natalino, ci sei l'ascolto? Natalino, ci sei l'ascolto? Attento Natalino. Chi è avanti? Chi è su 10 avanti? Natalino, ci sei? Natalino, ci sei? Attento Natalino. C'è qualcuno su canale 10? Avanti, chi è? Ebbè, non rispondi? La lingua, il gatto te l'ha mangiata. Avanti il fischio. Avanti il fischio. Giulio Dollaro, ma di Gazi, eh? Ciao Giù. Ciao, ciao Luca. Allora, Luca, non mi hai detto? Luca. Luca. Ehi Giù, la luce ha scattato, boh, non lo so. Ogni tanto scatta la luce qua, sono a vita. E come mai? Allora c'è il troppo carico. Ma non è che lo scaldabagno è la lavatrice insieme? No, sono la bagno sempre acceso. C'è il forno combinato che sta cucinando. E poi Maria ha acceso anche la parola sfida, ma prima non era acceso. Il baracchino è stato in trasmissione. E ha scattato la luce. Vabbè, ci vuole poco. Già al limite vuol dire che è così, è bastato un po' di carico. Vabbè, vuol dire dovrà rivedere qualche cosa, forse vuole aumentare la potenza, boh. Certo, pensavo che sia un po' il salvavita metro sciolto, perché lo fa, è successo in un appartamento, attaccavamo la smonta tutto il salvavita, tutto il coso, come si chiama, che non mi ricordo il nome, vabbè, uno di quelli è praticamente l'ha sciolto completamente. Ho capito, l'ho sciolto, là. Evidentemente non era già vecchio e allora scaldavano le lamelle e saltava. Giulio, dammi un attimino di tempo che controllo quello che sta cucinando, aspetta. Ok. Sì, avanti. Sentito? C'è problema al microfono. Cappa, e chi sei? Sono lì sono giugno. Ma sei a Zaza, dicei? Bidriati. A Bidriati, sì. Capa, io Sassari. Come mi dicevi? Ma, sì, Santiago 5 e Radio 5. Abbastanza bene, 5 sì, dai. E tu come mi senti lì? Mi senti forte? Santiago 8, Radio 5. Kappa, kappa, dai, ci ha fatto d'ora, sì, quasi, dai. Sì, sì. Kappa, dai, no, no, già ti sento bene qua, con TH di Sassari. Zona Corso Vico. Non lo so, zona. Kappa, tu, e tu mi ricevi com'è di radio, buona, Molto chiara, potente. Kappa, vabbè, io sto usando una radio come si deve. Kappa, dai, mi ha fatto piacere. Kappa, io sto usando un Motorola e terzo. Che apparecchio è? Hanno International. Ah, International. Già va bene come radio, ma da molto segui, non moduli. Anni. Capo, ogni tanto qua c'è sempre gente, mi. Oggi vabbè, è capitato così, è capitato, ma di solito c'è sempre gente, c'è. E tu che radio stai usando? Io sto utilizzando una radio molto più bella. Un Kenwood 140. Ah, ok. Lo conosci? Sì, bello, bello, buono. Kappa. Ok, dai, io ti devo lasciare, che adesso vado a mangiare. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Aspetta, ho fatto una prova, sono stato 2 minuti. Ehi, dai, 2 minuti aspetto. Ehi, avanti. Molto più basso, sei. Ripeti come eri prima. Adesso va meglio, adesso va molto meglio. Eri Santiago 2 eri. Ma che antenna stai utilizzando? Questa era. Ah, antenna di macchina. E allora stai uscendo anche troppo forte, stai uscendo. Kappa, dai. Dai, ci risentiamo, io scendo a mangiare, dai. Alla prossima. Il microfono amplificato ce l'hai? Non è questo il microfono amplificato. L'MC60. Bello, complimenti, buono. Kappa, dai, che ti devo lasciare, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao. Chi è? Hola, compañero. Beh.